24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. La Grecia ha deciso Alexis Tsipras vince le elezioni che delineano un nuovo futuro per il paese, una svolta che riguarda l'intera Unione Europea. La Grecia ha fatto un nuovo passo verso la sua storia, un passo per andare incontro a tutti gli altri popoli europei. Oggi è un giorno di festa, ma domani inizieremo un cammino, un lavoro molto difficile. Ciò che ci ha chiesto il popolo della Grecia è qualcosa che non si può discutere. Dobbiamo mettere fine all'austerità. Sono in tanti i greci che sperano ora in un futuro migliore. Professor Sergio Romano, editorialista del Corriere della Sera, ex ambasciatore a Mosca, con la vittoria di Tsipras cambia l'Europa? Cambia certamente, nel senso che tutti i partiti euroscettici penseranno di poter contare su Tsipras, penseranno che aprirà per loro delle prospettive migliori. Ma secondo lei riuscirà a ottenere quello che ha promesso dalla Merkel? No, non credo che riuscirà a ottenere tutto ciò che ha promesso ai suoi connazionali, ma d'altro canto la Merkel stessa è troppo realista per ignorare che i sentimenti degli elettori di Tsipras sono condivisi da una larga parte dell'opinione pubblica europea, quindi credo che realisticamente dovrà impegnarsi in un negoziato. Ma quindi sarà una qualche forma di addio all'austerity? Probabilmente sì, credo che Tsipras non può essere totalmente sconfitto di fronte ai suoi elettori. D'altra parte anche lui è abbastanza realista e sa perfettamente che la carta dell'uscita dall'Europa non è praticamente utilizzabile. Senta, insomma, ci dovrà essere un compromesso. Un compromesso. Per Renzi è un alleato improvviso in Europa. Per Renzi, e non soltanto per Renzi, anche per Hollande, senza dubbio. Intendiamoci, nessuno in questo momento può dare la sensazione di essere totalmente dalla parte di Tsipras. Senta, intanto in Ucraina si spara di nuovo, è guerra vera questa volta? Ma io ho l'impressione che ci siano da una parte e dall'altra il tentativo della provocazione. Non c'è dubbio che la Russia desidera creare una regione autonoma praticamente russa dell'Ucraina orientale, fino a collegare questa regione con la Crimea, e quindi Mariupol a questo punto diventa, la battaglia di Mariupol diventa una battaglia importante. Ecco, ma ho l'impressione anche che i ribelli filorussi stiano cercando di provocare il Cremlino, di costringerlo ad essere dalla loro parte. C'è il tentativo di creare in entrambi i campi un fatto compiuto. Ecco, professor Romano, però gli accordi non servono a niente, sono stati due gli accordi firmati, Minsk e Berlino, carta straccia. Sì, indubbiamente, questo è un fatto, voglio dire, che non va certamente a merito di Putin. Putin in questo caso sta giocando certamente su due tavoli: da un lato vuole dimostrarsi conciliante, comprensivo, ma dall'altro lato vuole creare per l'appunto un fatto compiuto e vuole che nel momento in cui si andrà veramente a negoziare un accordo quelle parti dell'Ucraina siano di fatto ormai acquisite ai filorussi. Ecco, ma in Ucraina Europa e Stati Uniti hanno gli stessi interessi o sono interessi contrapposti? No, non sono gli stessi interessi. Certamente la signora Merkel ha deciso che non possiamo essere concilianti con una Russia che procede in questo modo, ma d'altro canto non possiamo neppure continuare ad adottare sanzioni che stanno pesando sulla nostra economia in un momento in cui abbiamo bisogno di crescere, quindi molto imbarazzati, molto imbarazzati. Anche per resistere agli attacchi di Putin ci vorrebbe un sostegno finanziario molto forte da parte soprattutto dell'Europa, che non ha interesse. Ma certamente, vede, tra l'altro l'Europa è in grande imbarazzo, perché fare delle riunioni in questo momento non ha molto senso. O si fanno delle riunioni per imporre sanzioni alla Russia, e questo non possiamo e non vogliamo farlo, e allora una riunione europea che termina con un nulla di fatto diventa estremamente controproducente. Certo, ma insomma l'Europa si è fatta trascinare dagli americani in un guaio. Sì, devo dire che non è soltanto l'Europa in questo caso che condiziona la nostra politica, ormai non c'è niente da fare, voglio dire, con l'allargamento dell'Unione Europea esiste all'interno dell'Unione Europea un partito antirusso, per delle ragioni storiche, per delle tradizioni che possiamo anche capire. E tra l'altro un polacco è il presidente del Consiglio Europeo, un baltico è presidente di turno dell'Unione Europea, e questo naturalmente finisce per pesare sulla posizione degli altri, che sono in qualche modo costretti a non ignorare questi sentimenti, ecco, da parte dell'Unione. Professor Romano, ma sono le difficoltà che Putin ha in casa, il petrolio, il rublo, che lo spingono a giocare la carta dell'Ucraina con più violenza? Vedi, quando noi giudichiamo Putin lo facciamo sempre con criteri occidentali, cioè pensiamo che un presidente russo, come il presidente di qualsiasi altro paese dove si vota, debba essere in qualche modo condizionato dai suoi elettori. Non è il caso della Russia, c'è una, come dire, una capacità di accettare la leadership in Russia, radicata nella storia, nella cultura del paese. Quindi diciamo fa un po' come gli pare. Può continuare a fare come gli pare, quantomeno per un certo periodo. Quindi non è che lo fa perché si sente debole in casa, è una linea politica, insomma. Certo, Putin non dimentichi che il nazionalismo è una virtù. È un vizio, è un difetto del popolo russo. In questo momento Putin è, agli occhi dei suoi connazionali, è l'uomo che ha il coraggio di parlare forte agli Stati Uniti. Ma dopo quello che è accaduto in questi ultimi anni, gli Stati Uniti non sono molto amati in Russia. Ecco, ma è vero che l'Ucraina, mentre è in guerra con la Russia, vende armi alla Russia? Probabilmente sì, ma le ricorderò soltanto che dopo il patto fra Ribbentrop e Molotov, nella prima fase della Seconda Guerra Mondiale, la Russia forniva materie prime alla Germania e continuò a fornirle per alcune ore dopo l'invasione tedesca del 1941, perché i treni. Quindi niente di nuovo sotto il sole. Un'ultima domanda, professore. Federica Mogherini, che è la leader della politica estera dell'Unione, ha dichiarato che un'ulteriore escalation del conflitto potrebbe inevitabilmente portare a un deterioramento della relazione fra l'Unione Europea e la Russia. Insomma, parole di fronte all'immobilismo? Ma in questi momenti, voglio dire, sì, può lei immaginare un ministro degli esteri, e lei per certi aspetti lo è, che tace? No, certo, però dice parole. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. In passato c'era chi definiva i giudici disturbati mentali, mafiosi, responsabili. Finito un certo periodo, ha detto Lucentini, pensavo che le cose potessero cambiare. E però mi sbagliavo, perché le cose sono sostanzialmente rimaste quelle di prima. Quello che è cambiato è solo il metodo, che è diventato mediaticamente più sottile e dunque di maggiore suggestività. Di sottovalutazione, se non quando addirittura di svilimento, di fatti di violenza politica che invece dovrebbero allarmare quanto mai. Ciello Maddalena, procuratore generale di Torino, che la sua relazione ha paragonato il capo del governo a Napoleone, personaggio della Fattoria degli animali di Orwell, che ha scoperto, parole sue, il grande rimedio per tutti i problemi della vita: far lavorare gli altri fino a farli crepare di fatica. Ma il rito mediatico, dice Canzio, non può sovvertire le regole del rito penale. Dal pensiero corto alla sentenza tweet o al verdetto immotivato, il passo è breve. C'è poi il giallo di una frase tagliata da Canzio nella sua relazione, il ringraziamento al presidente Napolitano e l'accenno alla sua audizione davanti ai giudici di Palermo nel processo Stato-mafia. Una dura prova che si poteva risparmiare, scrive Canzio, al capo dello Stato e alla magistratura. Onorevole Giovanni Degnini, buongiorno, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Insomma, abbiamo sentito dichiarazioni violentissime. Siamo di nuovo alla guerra tra politica e magistratura? Spero proprio di no. La giustizia italiana di tutto ha bisogno, fuorché di una nuova stagione di scontro che rischia di distogliere i decisori politici, ma anche la magistratura, gli operatori del diritto, ecco, e i cittadini da problemi veri. Però, onorevole Legnini, procuratore generale di Milano Canzio, che dice che non bisognava interrogare il presidente Napolitano, vuol dire che c'è una lotta anche all'interno della magistratura molto dura. Ma in questo caso appunto questa affermazione non è rivolta alla politica, quindi non si può iscrivere dentro la categoria scontro politica magistratura. È una sua valutazione, peraltro abbastanza diffusa. Da me, nell'esercizio della mia funzione, non sentirà mai una parola su un singolo atto giudiziario. Però questo è un attacco molto preciso ai giudici di Palermo. Lo sta dicendo lei. Senta, ma come fa un cittadino normale a sentirsi garantito da una giustizia così conflittuale al suo interno? Infatti occorre urgentemente recuperare quell'autorevolezza, quel prestigio della magistratura con fatti e comportamenti concreti e con politiche che pongano il tema giustizia finalmente tra le grandi priorità nazionali. Onorevole Legnini, possibile però che mentre tutte le categorie pubbliche hanno il blocco degli scatti di stipendio, per esempio, solo i magistrati no? È giusto secondo lei? Anche per i magistrati ci fu il blocco degli stipendi, a seguito di un ricorso ci fu un pronunciamento della Corte Costituzionale qualche anno fa che dichiarò illegittimo quel blocco. E dopodiché io penso che sia ingiusto per le altre categorie professionali, per i pubblici dipendenti, per i magistrati tutti si può dire, fuorché siano privilegiati sotto il profilo economico. Beh, però gli scatti loro li hanno e gli altri non li hanno. L'ha stabilito la Corte Costituzionale. Sarà, ma a me sembra un piccolo privilegio in un mondo dove i disoccupati, i precari crescono. Come si fa a non considerarlo un infatti privilegio? Il problema sono i disoccupati, i precari, coloro che hanno visto bloccare le retribuzioni per lungo tempo a causa delle ristrettezze finanziarie. L'autonomia e l'indipendenza della magistratura, che sono valori assoluti, non sono in discussione, si sostanzia anche con la loro indipendenza economica, secondo il mio parere. Senta, lo scontro tra la politica e la magistratura è arrivato al punto che il ministro Galletti a Bologna ha abbandonato la celebrazione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Grave, no? Che alcune affermazioni dei capi di corte di questi giorni siano state molto forti mi sembra un dato, dopodiché abbandonare la cerimonia di inaugurazione giudiziaria, insomma, per me non è condivisibile. Però tornando allo scontro interno alla magistratura, a Milano, se è possibile, è andata anche peggio. Il capo della procura, Brutti Liberati, si è presentato con i suoi aggiunti schierati con lui, ma senza Robledo. È un'immagine non bella, certo, no? della giustizia. Io ero presente a Milano, ho partecipato a quella cerimonia di inaugurazione giudiziaria. Quella immagine ripresa dai giornali è stata un po' enfatizzata. Se il dottor Robledo non ha seguito il procuratore, bisognerebbe chiederlo a lui. Ma poi è venuto? Io non l'ho visto, no. Senta, il Consiglio Superiore della Magistratura aveva mandato Robledo a Venezia, poi però non è stato possibile. Perché? Perché nel frattempo è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio del dottor Robledo da parte della Procura Generale presso la Cassazione, con richiesta di misura cautelare di trasferimento d'ufficio. Io il giorno stesso ho fissato l'udienza della sezione disciplinare per il 5 di febbraio e le regole interne al Consiglio prevedono che l'azione disciplinare prevale sugli altri procedimenti, quindi un fatto nuovo si deciderà su quel fatto nuovo. Quindi non è un pasticcio che è capitato? No, non è assolutamente un pasticcio, vi era una iniziativa che io ho assunto e che rivendico di applicazione a Venezia o in altra sede del dottor Robledo per evitare di continuare quella situazione dilaniante per quella procura. Dopodiché c'è stato questo fatto nuovo, certo. Il fatto nuovo è determinato dalla dissecretazione dell'intercettazione da parte della procura di Reggio Calabria pochi giorni prima dell'iniziativa del procuratore generale. Senta, onorevole Legnini, però continuo a chiederle come si fa a sentirsi garantiti di fronte a una magistratura all'interno della quale c'è una lotta di potere di questa forza, di questa violenza. Infatti lei ha ragione, la magistratura non può esercitarsi in lotte di potere interno, su questo concordo. Senta, ma è stato l'eccesso di visibilità dei pubblici ministeri che ha creato questi protagonismi in parte ingestibili o difficili da gestire? Che si siano verificati fenomeni di eccesso di visibilità è fuori discussione, insomma la storia è costellata di episodi di questo genere. Dopodiché c'è un grande tema che noi vogliamo affrontare, abbiamo iniziato ad affrontare, il tema del rapporto tra la comunicazione e l'amministrazione della giustizia. Molto importante. Che è molto rilevante perché l'immagine... Beh, nel mondo dominato dai mass media mi sembra quasi una priorità assoluta. Assolutamente, io penso che bisogna arrivare, e noi avvieremo un lavoro nelle prossime settimane, a una sorta di protocollo di... Insomma, regole di comportamento. Regole di comportamento. Ah. Regole di comportamento per fare in modo Ma che... Ma vincolanti per tutti. Guardi, il Consiglio Superiore è munito di un potere di regolamentazione. Sì. Noi vorremmo tentare di esercitarlo. Di esercitarlo, sapendo che questa materia, per la sua delicatezza, trattandosi di contemperare esigenze contrapposte, il diritto della pubblica opinione ad essere informati, l'obbligo di riservatezza per i magistrati per i procedimenti che trattano e nel contempo il diritto per i magistrati di esprimere le loro opinioni, da questo sarà un punto di equilibrio difficile. Da queste esigenze dipende la possibilità di avere buone regole di comportamento. Adesso se saranno coattive o no sarebbe improprio da parte mia anticipare. Io penso che bisognerà arrivare appunto a una condivisa autoregolamentazione. Senta, onorevole Legnini, di fronte a 5 milioni e mezzo di pratiche inevase nei processi civili, è stato un errore iniziare la riforma da lì, come ha fatto il governo, oppure era una necessità? Era ed è una necessità. Quindi noi è giusto. È giustissimo, il processo civile per troppo tempo è stato... considerato una cenerendola, invece è l'aspetto dell'amministrazione, dell'esercizio dell'attività giurisdizionale è fondamentale, che impatta di più sui cittadini. Certo, c'è il tema della corruzione, della criminalità organizzata, temi di primarissima importanza, naturalmente, ma la possibilità di avere... Insomma, cominciare di lì non è stato un errore. No. Ecco, a proposito di riforma invece della prescrizione, il procuratore di Torino Maddalena ha proposto che parta da quando l'indagato sa di essere tale. Lei è d'accordo? Io lo condivido, perché non si può affidare la possibilità di perseguire reati dalla data in cui si riesce a accertare Insomma, lei è d'accordo con Maddalena? No, io non sto dicendo solo che questo tema della prescrizione è un tema serio, certo, che il governo e il Parlamento stanno affrontando. Bisogna accelerare, bisogna fare in modo che il lavoro che le procure e i giudici fanno per anni e anni e anni, anche utilizzando risorse della collettività, venga buttato al macero, ma nel contempo bisogna anche garantire la ragionevole durata del processo. Senta, onorevole Legnini, il procuratore Maddalena però, a proposito del taglio delle ferie voluto dal governo, ha detto testualmente che Renzi vuol far crepare di fatica i magistrati come il maiale Napoleone della fattoria di Orwell. Lei come giudica questa dichiarazione? La giudico sbagliata, perché questo tema delle ferie è stato enfatizzato. È noto che quei 15 giorni di ferie in più sono serviti, servono ai magistrati come agli avvocati. D'accordo, però. Per smaltire il lavoro pregresso, per completare gli adempimenti, per depositare le sentenze. Dopodiché il legislatore ha deciso, si può giudicare o meno giusta quella... Vabbè, però insomma, il legislatore ha deciso. Certo. Quindi, diciamo che parlare di ferie significa produrre una situazione di sviamento dai problemi veri della giustizia. Ecco, il Premier Renzi infatti ha commentato: accusarci di far crepare i magistrati per una settimana di ferie in meno o è un disegno o significa che i magistrati hanno perso il contatto con gli italiani che lavorano. Quindi la guerra è una guerra veramente alzo zero. Guardi, noi eviteremo che questa guerra continui a combattersi. Vabbè, non la invidio. Non serve ai cittadini. Il Parlamento ha deciso che i giorni di ferie, e devono essere effettivi, sono 30. Okay. Punto. Punto e basta. Dopodiché è giusto che i magistrati criticano, ma bisogna rispettare quella norma. Senta, il CSM solo poche settimane fa aveva dato un giudizio incoraggiante sulle riforme. Lo mantiene questo giudizio lei? Giudizio incoraggiante, ma bisogna farle le riforme. Sì. Bisogna accelerare. Bisogna Vabbè, le piacciono, le ma bisogna farle. Siano ben scandite. Corruzione, prescrizione, l'ha detto. Processo civile, certo. E soprattutto organizzazione, personale, organici. Ecco, a proposito degli organici, onorevole Legnini, il ministro Madia propone di assegnare una quota dei 20.000 esuberi delle province ai tribunali. È una strada semplice e chiara, è giusta secondo lei? Secondo me è giusta e io stesso l'ho sollecitata. Ho chiesto che 5.000 dipendenti siano delle province vengano destinati agli uffici giudiziari, perché la carenza di personale amministrativo è molto grave. Quest'anno il governo ha deciso di assumere 1.000 dipendenti, il ministro Orlando ha annunciato che saranno 2.000 per fine anno. Vabbè, però questo spostamento previsto dalla Madia mi sembra va nella giusta direzione. Non basta dirlo, bisogna farlo. Tutte le cose vanno fatte, non dette. Ricordo anche che negli uffici giudiziari italiani lavorano circa 2.000 precari che non si sa che fine faranno, e bisogna decidere anche sulla sorte. Ecco, ma appunto, di fronte a queste percentuali di disoccupazione, la difesa del posto di lavoro in un posto preciso, in un luogo preciso, non diventa anche eticamente insostenibile? Penso che la mobilità possa e debba essere utilizzata in modo largo, e appunto laddove c'è esubero, e questo vale per le province ma vale anche per altri settori della pubblica amministrazione, si può attingere per soddisfare esigenze non rinviabili come quelle degli uffici giudiziari. Lo sa che molti magistrati vorrebbero fare più udienze durante la settimana e non gli manca il personale, perché non hanno il personale. Mix 24. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so wide. And stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, the river, I'll back. Che lingua strana per te, Pietrangelo. Ormai è una moda, mi adeguo. Ah, Pietrangelo si adegua, Mario, è una novità, una notizia. Incredibile, vabbè, stamattina. Ormai cos'è questo? È il trionfo dell'Italian English. No, ma questa l'ho scelta apposta perché c'è una sonorità, una musica, un'atmosfera, è perfetta per il lunedì, quando capita di tornare da lontano. E capita di tornare da un lontano che è fin troppo vicino, la vita di ognuno, un continuo riavvolgere la vita, quei ricordi, la sensazione, le giornate sventagliate da quel carico di ciao, di arrivederci, e poi d'improvviso l'addio. Ed è tutto un riavvolgere da lontano nello stesso fiume, e l'acqua, sempre diversa, dove ogni goccia è parola. E quel lontano è il patrimonio d'amore a noi più vicino, e quando si torna da lì, asciugandosi nella fretta di tornare, e si torna alle faccende profane, al lavoro, ci si ritrova asciutti, avendo perso tutte le parole. Si è adeguato, ma bene però, certo, con classe, sempre con la classe, che non è acqua. Ci sarà l'inglese, però Eraclito sul fiume la dice bene. Mamma mia, non ce l'ho. Bolle! Allora. Allora, questo è il Mediterraneo, no? Il tema del bellissimo film. No, volevo parlare di Grecia. Ovviamente io sono contento della vittoria di Tsipras, perché penso che comunque uno shock sia salutare, no? Per l'Europa, per cambiare i paradigmi. Prego. Tu sei contento, però una domanda. Sì. Ma non è che Tsipras vincendo così bene faccia ombra a Renzi? Quello si preoccupa di... O lo aiuta. Secondo me gli fa un'ombra. Ormai il fighetto è quello. Sì, vai. No, boh, non lo so, forse sì, è più bello. Certo, anche solo in Italia possono credere che Renzi sia bello. Anche per Salvini è un problema, però, Tsipras. Vabbè, per Salvini tanto sta coi cattivi, non è che coi buoni. Sì, tra loro buoni. Si creano problemi. Il problema è tra i buoni. Allora dicevi la Grecia al debito. No, io volevo parlare di Grecia. Allora, a parte l'esito che insomma è là, hanno votato, mi pare anche un verdetto chiarissimo, no? Certo. Però il debito c'è e qualcuno dovrà pur pagarlo questo debito. Poi vediamo come. Dunque, o lo paghiamo noi o lo pagano i greci. Cioè, su questo non è che c'è molto da discutere. Faccio un riassuntino. La Grecia ha avuto due round di finanziamento da varie istituzioni nel corso degli ultimi anni, europei, Fondo Monetario Internazionale, prestiti bilaterali. Il totale fa circa 320-317 miliardi. Adesso andiamo a spannometro. Due terzi sono crediti che sono vantati, cioè sono nei bilanci degli altri, e ha avuto condizioni favorevoli mai date e concesse a nessuno. La durata media del finanziamento è di 30 anni. La durata media del debito della Grecia di 16,5 anni, il doppio rispetto all'Italia, alla Germania e così via. Sono condizioni straordinarie, ripeto, mai concesse a nessuno. Atene non può certo pensare che il debito suo sia nostro, anche perché noi italiani, secondo calcoli fatti da Bloomberg, sapete di quanto siamo esposti in realtà con la Grecia? No, di quanto? 40 miliardi. Cioè, 40 miliardi di quelli lì sono nostri, che abbiamo messi noi. A vario titolo, con vari meccanismi, con vari veicoli. La Grecia ci deve 40 miliardi. In qualche modo, detto insomma. Detto in italiano che detto, si capisca. Esatto. Allora, questa sarà roba non è della che... vecchia di Alice. Quindi, caro Buttafuoco, io sono felice per la rottura del totem europeo, che si cambino le politiche, eccetera, però da italiano, così lo dico sommessamente, io vorrei rivedere i miei soldi indietro. Solo questo. Poi Tsipras è fighetto, fa parte dei buoni, io sono felice, canta bella ciao e tanti auguri. Salamino! Più che un salamino, un hot doghino, mi adeguo, quindi il salamino diventa un hot doghino. Oh, però diciamolo, certo che sto veri bello, il portale del Ministero della Cultura per la promozione della bellezza del nostro patrimonio artistico, dopo il cool della Marina, conferma il trionfo della lingua piritolla. A proposito di cool della Marina, ho capito qual è il nuovo inno della Marina Militare. Ti volevo italiana. Dire che è con due O. Cool. Non è ok. Vabbè, cool. Ok. E di cool in cool ho scoperto qual è il nuovo inno della Marina Militare Italiana. Qual è? Oh, ma questi erano. È una cosa un po'. Erano un po'. Mentre esci. Come si dice? Cosa se ne esce? Village People. Anche loro erano molto. Insomma, e questo cool. È no? Cool, il Renzi style. Ed è. Insomma. Insomma, ed è la bote. Però, scusa, Giovanni. Prego. Tu che sei maestro in questo. C'è una radice storica in Renzi. E linguistica. Ed è questa. Allora, 5543 is uno santi bailo samaritano fresco. Santi bailo. Nando Mericoni in arte Santi Bailor, America del Treccio. Hai visto? È l'apoteosi di Nando Mericoni ed è giustamente diventato gigante Renzi con la Y nell'Olimpo dei cretini cognitivi. Quindi dalla grande bellezza siamo arrivati al beauty case di Beri Bello. E tutto dunque è, giusto per restare nelle radici italiane, molto pittoresco. perché appunto Renzi ha adottato la Y, che è cool, come dice Mario, con due O. E se Berlusconi al G8 si occupava personalmente di collocare le piante, le piantine, le graste, le roselline, Renzi con la Y colloca i capi di governo sotto le incombenti virilità delle statue classiche, come la Merkel che si è trovata sotto il David di Donatello. Giusto per farle dire, sai cosa ha detto la Merkel? No, dimmi. Ah, molto pittoresco. Eh sì, perché era rimasta ammirata della statua. Allora, ma io ho saputo una cosa. Cosa? Ora, prima o poi si dovrà incontrare con Obama. Quello comunque è pur sempre il riferimento, il portale Veri Bellissimo, dei Piritolli, e quindi Renzi, non potendo utilizzare il David, adesso ha chiesto che vengano sistemate, quando arriverà Obama, tutte e due i bronzi di Riace, perché sa, si sa, è la somma che fa il totale, perché le misure sono quelle misure. Ma insomma, c'è anche, ce ne mette due con Leone, prende i due bronzi e ragazzi. Obama potrà cantare con noi Troppo Very Well. Il 2015 è partito così malissimo. Sara, recupera per favore, tocca a te Sara. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Ci stiamo avvicinando alle settimane cruciali del picco dell'influenza previsto per metà febbraio. C'è chi a queste previsioni non crede, chi invece si prepara. Comunque, picco o no, in questi mesi si sa, ci si ammala più facilmente. Io, come una brava giornalista, ho raccolto le prove in regia, puntata dopo puntata. Sentite! Avremo una discussione all'interno del partito su questo. L'ufficio di presidenza, che opportunamente è stato aggiornato, credo che venga eletto. Diamo i numeri. Il rimedio contro la freddura influenza esiste da più di 10 anni. Tanti colleghi. Voglio rassicurare soltanto i nostri ascoltatori che il mio raffreddore è più dei fazzoletti e quindi non riesco a eliminarlo. Chiedo scusa se c'è qualche rumore spiacevole. Mi riconoscete o no? No, invece sì. Allora, ma siccome starnutite, tossite, tirate su con il naso, un delirio di bacilli. Siamo tre vecchietti. Io ho una soluzione per voi. Pietrangelo, non mi guardare così. Eri tu? No, è perché noi lavoriamo sempre in tutte le condizioni, anche con la febbre a 38. Bravo, 39. Appunto. Per questo è nata un'applicazione che potrebbe essere una soluzione. Esatto, dottoressa Longo, la cosa straordinaria è che si può risparmiare usando la sua app. Perché? Perché non solo c'è la possibilità di leggere il foglietto illustrativo in modo semplice e chiaro. Cata, ci sono un uomo e una donna e si può selezionare la parte del corpo che ci dà problemi. Sì, abbiamo ideato la funzione sintomo proprio per combattere la cosiddetta automedicazione improvvisata. Si avranno informazioni soltanto riguardanti i farmaci di automedicazioni da banco, quindi senza obbligo di prescrizione medica. Tutte queste informazioni che voi raccogliete, semplificate, rendete molto più comprensibili per chi non ha una laurea, per esempio in farmacia come lei, dove le recuperate? Dalla banca dati di Farmadati Italia e dagli open data del Ministero della Salute. Un'altra cosa comodissima è che se uno si trova in una qualunque città che non conosce, subito riesce a trovare una farmacia. Come? La visualizzazione attraverso la mappa delle farmacie più vicine e avere poi indicazioni utili sul come contattarla, come raggiungerla e gli orari di apertura. Dottoressa Longo, invece, come le è venuta in mente questa app? I miei clienti al banco. Praticamente ogni giorno mi trovavo di fronte a dei clienti che avevano proprio la necessità di informarsi, perché cresce sempre di più, secondo me, nel cittadino la volontà di effettuare delle scelte sulla propria salute e sull'utilizzo e il consumo di un farmaco sempre più consapevole, sempre con un senso critico maggiore. Per cui ogni giorno appunto mi ritrovavo a rispondere a queste perplessità. Da qui, unendo le mie competenze comunque la mia passione per la tecnologia, per il digitale, ho pensato che lo strumento, comunque il modo più veloce per arrivare al cittadino fosse lo smartphone, e quindi è nata così è nata l'applicazione Forma Wizard. Dottoressa Longo, invece sta avendo successo questa applicazione? Cioè se la scaricano quanti? Sì, sì, assolutamente sì. Siamo arrivati già a 40.000 download neanche nell'arco di un mese. Mix 24. Mario, ancora una bolla. Sì, vai. Spassosissimo pezzo, un po' retro dei Daft Punk. Senti. Tecnologic. C'è un robottino nel video. Allora, parliamo di Microsoft, che è uno dei giganti di internet, come sapete, dell'hardware e del software, e naturalmente è uno di quelli da seguire con attenzione, perché ti dice come sta andando il mondo o come non sta andando. Hanno anticipato Windows 10, la tecnologia degli ologrammi, gli HoloLens, quindi sono in grandissimo movimento e c'è una fortissima competizione, e hanno 65 miliardi di dollari di cassa da investire, caro Giovanni. Nel caso volessero investire su di noi, insomma, siamo pronti. Siamo vecchietti, ma non ci hanno ancora rottamato, dunque possiamo ancora dire qualcosa. Nel frattempo io segnalo una cosa: se tu avessi investito, ho fatto un po' di conticini, $21 in 100 azioni di Microsoft il giorno del debutto in borsa, il 13 marzo del 1986, oggi per effetto degli split avresti in portafoglio 28.800 azioni. E sai quanto varrebbero? Quanto? $1.200.000. Pensa, sarebbe stata una buona idea. Che grande investimento. Non male. Non male. Prima del salamino, Mario, domani vorrei che mi spiegassi perché Facebook, è una ricerca americana che lo dice, non crea ricchezza ma semplicemente la sposta. Un'inchiesta americana. Sì. Salamino. Spensieratamente mi arrovello e finalmente chiedo la tua mano, c'è di peggio. Rubo il mestiere ai critici cinematografici proprio nel far ascoltare questa delizia di canzone. Ed è Sei mai stata sulla luna, una canzone di Francesco De Gregori, e la scelgo apposta perché voglio parlarvi di un'altra delizia, appunto Sei mai stata sulla luna, un film di Paolo Genovese che non solo, Giovanni, è la dimostrazione di come possano essere spesi bene i soldi pubblici, quelli della Film Commission Pugliese, per esempio, e quelli del Ministero dei Beni Culturali, ma anche di come si possa finalmente fare commedia con gli strumenti della fantasia e non con le scorciatoie della farsa. È una delizia, una vera favola, un racconto di pura grazia, il canone elegante della commedia, infatti... C'è uno strepitoso Neri Marco Re nell'interpretazione, diciamo, del ritardo cognitivo, e poi, manco a dirlo, De Gregori che scrive apposta questa delizia. La colonna sonora è sua, fantastica. Sei mai stata sulla luna? Sei mai stata sulla luna? Vabbè, Mario. Vuoi dare la bolla? Una cosa rapida, senti. Allora, un po' di James Bond, poi metterò anche Gecko nei prossimi giorni, non vi preoccupate, per dire che il Pentagono, una notizia curiosa, l'ho letta stamattina, il Pentagono ha deciso di studiare il linguaggio del corpo per capire se sei una spia, dunque James Bond, o un dittatore che sta per bombardare un altro paese, solo studiando il linguaggio del corpo. E hanno messo $300.000 a budget per questo studio, quindi lo studio della prossemica. Esatto. E tu sei un uomo che ha fatto televisione e teatro, secondo me, perché la prossemica la conoscono solo queste persone, il linguaggio del corpo. Molto bene. Un'altra vita. Come siete colti. Colti, come dice Peppino, siamo colti come fragoline nel bosco. Colti in flagrante. Oggi, per la storia, continua la serie sui presidenti della Repubblica in attesa di quello nuovo. E subito dopo il giornale radio raccontiamo la storia di Sandro Pertini. Sentiamo una brevissima testimonianza su di lui di Giorgio Napolitano. Il suo settennato si può definire come ricerca felice coronata dal successo di un rapporto finalmente più diretto e più schietto tra la più alta istituzione della Repubblica e il popolo. Il Quirinale è diventato con lui una casa aperta, una casa di tutti,